Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sono il simbolo del consumo critico, hanno fatto largo per primi nella spesa ai prodotti biologici e a chilometro zero, all'insegna di un consumo equo e sostenibile. Parliamo dei GAS, i gruppi di acquisto solidale, che ora portano avanti la loro versione 2.0. Siete appassionati di puzzle game, i videogiochi rompicapo, da Candy Crush a Razzle, per intenderci? Il fenomeno del momento è Numix, nasce sul tavolo della cucina di casa di un papà che vuole aiutare la figlia a imparare le tabelline e poi, grazie a Make It Up e alla creazione collaborativa, sta scalando le classifiche degli store. Tra gli accessori fashion ormai indispensabili parliamo di occhiali e tendenze, le ultime proposte di uno dei settori protagonisti dell'export made in Italy. Quando compriamo delle mele ci sono numerosi intermediari tra noi e il produttore. Un supermercato, un grossista, una cooperativa, a volte anche un agente commerciale. Da un lato paghiamo caro il prodotto. Dall'altro il lavoro del produttore è mal retribuito. L'albero che dice sì si pone l'obiettivo di accorciare la distanza tra noi e produttori. Il video lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Parliamo dell'alveare che dice sì. Questo è il nome mutuato dalla versione francese, la prima, di questo progetto fatto di start-up in tutta Europa, dove gli alveari ormai sono più di 800. 800.000 gli utenti in rete, un vero e proprio movimento di consumo chiamato The Food Assembly. Gli alveari sono in pratica gruppi di acquisto 2.0, sono circa 30 quelli già attivi in Italia. Promuovono l'acquisto di prodotti a chilometro zero. Chiunque, privato, azienda o associazione, può aprire il proprio alveare, presso il quale i consumatori si ritroveranno poi una volta alla settimana per ritirare dalle mani dei produttori locali i prodotti ordinati online. A coordinare gli alveari italiani c'è Eugenio Sapora. Allora, l'alveare che dice sì è sostanzialmente un nuovo modo di un nuovo approccio che bisogna avere nel fare la spesa. È una sorta, ci definiamo a volte, di GAS, gruppi di acquisto solidari 2.0, una rete che permette a un consumatore in una città, in campagna, ovunque si trova in Italia, di comprare prodotti da produttori direttamente dalle loro mani, però avendo fatto un acquisto online. Quindi sostanzialmente c'è una piattaforma, www.alveareclicc.it, in cui un utente si reca, clicca, trova il suo alveare di quartiere o di paese o di cittadina e può comprare i prodotti direttamente dai produttori affiliati a quell'alveare. E poi come vengono ritirati i prodotti? Ecco, la cosa bella è che l'alveare che dice sì è un progetto molto sociale. I prodotti vengono ritirati nell'alveare. E l'alveare che cos'è? L'alveare può essere qualsiasi cosa. L'alveare può essere un bar, un circolo arci, un ristorante, i locali di un'associazione. E una volta a settimana questo luogo si trasforma in una sorta di piccolo mercato effimero in cui le persone vengono a ritirare i prodotti direttamente dalle mani dei produttori. Uno degli slogan che diciamo noi nel nostro progetto è stringi la mano al tuo produttore, perché sai effettivamente da chi stai comprando. L'alveare non è solo un modo di fare la spesa, è anche un progetto a impatto sociale, è anche qualcosa che permette di creare comunità di vicini, ma comunità anche tra cittadini e produttori. Chi può aprire un alveare? Chiunque sia un po' motivata, abbia un po' di tempo, un po' di passione, può aprire un alveare. Inizia a contattare i vicini, i parenti, gli amici, tira su 50-100 persone, contatta 4-5 produttori delle campagne circostanti e poi una volta che questa comunità di acquisto è creata, la comunità di vendita, quindi di produttori creata, dà il via alle vendite. Quindi una volta a settimana gestirà questa distribuzione. L'alveare che dice sì, a differenza dei gruppi di acquisto, decide come politica di dare 8% della transazione economica al gestore dell'alveare, quindi alla figura che tira su la comunità d'acquisto, che contatta i produttori, che organizza e gestisce le vendite. È giusto che la persona che si prende questo impegno riceve anche un minimo compenso da questa cosa qua. Io non lo vendo mai come un lavoro, perché non è un lavoro, certo questa percentuale permette di arrotondare un po' lo stipendio, quello che vuoi, può anche diventare un mini stipendio se c'è molto sforzo che è fatto dalla parte del gestore dell'alveare, però l'idea è davvero mantenere i buoni principi, mantenere questa voglia da parte del gestore di creare comunità di quartiere e un gruppo di acquisto sano. Cambiamo argomento, prendete un papà alle prese con le tabelline da far imparare alla figlia e un editor collaborativo di app. Mettete insieme le due cose e otterrete una bellissima storia di successo che sono molto felice di raccontarvi. Parliamo di Numix, un puzzle game fatto di somme e numeri, una sorta di Razzle ma con le cifre al posto delle lettere, un'app che sta rapidamente scalando le classifiche dei giochi più scaricati. Nasce dall'idea di un papà e diventa realtà grazie a Make It App, la piattaforma italiana per la creazione e lo sviluppo di app in modo collaborativo di cui vi abbiamo già parlato. Ci racconta tutto Olivo Tagliapietra, il papà protagonista della storia. Numix è un'applicazione, è diciamo un gioco, un puzzle game. Si devono fare delle somme e catene di numeri. Diciamo è nato un paio di anni fa con mia figlia, mentre l'aiutavo a fare i compiti di matematica, lei era in prima elementare, e diciamo così l'aiutavo scrivendo un po' le somme su un foglio di carta e lei scriveva i risultati. Dopo un po' abbiamo provato a cambiare un po' usando i numeri già scritti sul foglio e un po' selezionando i numeri presenti sul foglio lei trovava i risultati, era un po' un gioco così di trovare le somme nascoste. Poi abbiamo visto un po' così che era divertente un po' fare le somme in questo modo e allora un po' a volte insomma, ho provato a stampare dei fogli con i numeri già scritti, assieme trovavamo le somme e così un po' è nato il gioco su carta, no? E niente, mi sembrava divertente provare a fare un'applicazione usando questo meccanismo di gioco e cercando in rete ho trovato appunto la piattaforma Make It App e con loro appunto siamo riusciti a sviluppare questa applicazione con l'aiuto proprio degli utenti. È una community dove gli utenti mettono a disposizione le competenze come sviluppo applicazioni, come la grafica, i suoni. Si crea una squadra e assieme si porta avanti l'idea. In questo caso diciamo io ho proposto l'idea è piaciuta e siamo riusciti a creare la squadra, abbiamo migliorato, insomma abbiamo creato una dinamica che andasse bene per l'applicazione sugli smartphone. Tu hai competenze informatiche? Poche, sono un disegnatore ma non ho competenze specifiche nell'applicazione. Quindi tu ci hai messo l'idea? Io ho messo l'idea, ho dato un po' le informazioni che servivano, l'idea come doveva essere il risultato finale ed assieme abbiamo messo a punto il gioco che fortunatamente ha avuto anche un buon riscontro. Siamo da un paio di settimane in classifica sull'Apple Store, perciò diciamo, abbiamo anche soddisfazione appunto di vedere riscontro. Siete entrati nella top 50 dei giochi e nella sì. Top 10 dei puzzle game. Ti aspettavi questo successo? È stata una sorpresa perché visto il numero di applicazioni di questo tipo che ci sono, come il puzzle game che è un tipo di tipologia di giochi molto affollata, diciamo siamo molto soddisfatti di aver visto questo posizionamento in classifica. Sì, sì. Ti stanno arrivando dei guadagni anche, immagino, da questa cosa. Diciamo il riscontro economico è in ritardo rispetto alla posizione in classifica perché Apple Store paga dopo mi sembra 60 giorni, però ci sono riscontri economici già da adesso perché l'applicazione è sullo store da qualche mese e già da subito insomma vediamo che qualcosa arriva. I ricavi sono divisi per la squadra in base al ruolo che aveva ognuno nella squadra. Nella piattaforma di Make It App si occupa della gestione dell'applicazione come risposte agli utenti che chiedono informazioni, per quanto anche la parte di marketing, e assieme abbiamo anche un team di tester che cerca appunto di trovare i bug, di trovare i problemi che ci possono essere durante la fase di progettazione. E anche mia figlia tra questi ha trovato un bug, poi tra l'altro mentre giocava in fase di test appunto anche lei ha partecipato in parte a migliorare il prodotto, diciamo, che abbiamo ottenuto. Dagli occhiali in vinile a quelli in marmo e fibra di carbonio, pensate, il settore scalda i motori per la primavera e l'estate. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Essere e Avere. What do these pictures mean to you yourself? Oh, they've become more or less the most important part of my life. I can't imagine now living without them. Focus sui trend. Sono diventati la cosa più importante della mia vita, non posso immaginare di vivere senza loro. Parole di Peggy Guggenheim sui suoi quadri, sulla sua incredibile collezione d'arte moderna. Le abbiamo appena ascoltate dal film Peggy Guggenheim Art Addict, dal 14 marzo al cinema. Un'icona, quella della collezionista, celebrata anche da Safilo, che ripropone ogni anno in una nuova versione colore i celebri occhiali da sole a farfalla di Peggy, disegnati per lei nel 1966 dall'amico artista americano Edward Melkart. Ci è sembrato lo spunto perfetto per dedicare il focus sui trend di questa settimana agli occhiali, l'accessorio fashion numero uno per molti di noi, un oggetto che forse più di altri racconta le epoche che attraversa, quindi dai materiali ai modelli, passando per brand e testimonial. E allora ci facciamo raccontare tutte le novità, le ultime tendenze del settore da Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Altro spunto a cui ci vogliamo collegare, Valentina, a Milano si è appena conclusa Mido, la fiera clou per il settore. Sì, Mido è una delle fiere più importanti del mondo su questo settore e tra l'altro si è conclusa a Milano con grande successo, ha fatto un record di presenza di oltre 52.000 visitatori, che per una fiera B2B, cioè dedicata agli operatori del settore, è una crescita davvero importante, con un aumento del 7% rispetto al 2015, che già era stato un anno straordinario. Una fiera particolarmente interessante appunto perché ospita un oggetto emblematico, ben più che un accessorio, un oggetto che entra in relazione con ognuno di noi. Tra l'altro Future Concept Lab per Mido ha condotto negli ultimi 6 mesi una ricerca davvero importante, una ricerca che ha attivato il nostro osservatorio in 10 città del mondo e che aveva proprio lo scopo di capire come le generazioni, le diverse generazioni attivano una relazione virtuosa con gli occhiali e soprattutto quali sono le grandi tendenze che stanno in qualche modo caratterizzando questo settore. Che cosa ne è emerso? Ma allora, sicuramente un primo importante fenomeno è quello che noi chiamiamo pass forward, che proprio racconta come il passato continui ad alimentare la creatività in modo importante, ma soprattutto per guardare avanti, cioè è una tendenza che distilla passato e futuro in un'estetica fortemente radicata nel presente più avanzato. In fondo l'omaggio a Peggy Guggenheim rientra perfettamente all'interno di questa tendenza, lì dove la memoria diventa autorevole, cioè ci sono alcuni personaggi particolarmente forti nell'immaginario che attraverso gli oggetti che li hanno in qualche modo caratterizzati ispirano moltissimo le estetiche. È una tendenza che ha diverse sfumature, ma che davvero mette insieme passato e futuro in modo molto poetico. Si può citare un bellissimo caso che si chiama Vinilize, che è un'azienda ungherese che proprio a Mido ha presentato una collezione di oltre 60 modelli di occhiali realizzati con i vecchi vinili, ognuno diverso dall'altro e che oltre a essere molto interessante dal punto di vista dei materiali, diventano anche, come dire, custodi di memorie passate, perché sono stati realizzati con discorsi di Lenin, con gli album dei Pink Floyd, con gli album di Bob Marley, per cui in qualche modo ti porti sul viso dei personaggi importanti che hanno davvero segnato un'epoca. Tu me le hai anticipate, Valentina, la seconda tendenza è regular beauty. Esatto, cioè in questa sorta di bulimia creativa ed estetica che pur continuando ad essere importante è come se emergesse una controtendenza, cioè un nuovo desiderio direi di normalità, di cose semplici, lì dove non diventano mai banali, perché poi come ben sappiamo per arrivare a semplificare ci sono sempre dietro processi importanti, però è come se ci fosse la voglia di distillare il gusto, di lavorare su delle proporzioni, su l'idea di dettaglio prezioso, di dettaglio sostanziale, mi viene da dire. Come dicevi giustamente all'inizio, gli occhiali sono un oggetto particolarmente caro a tutti noi, perché sono, se ci pensiamo, quelli più vicini al nostro sguardo, al nostro viso. Per cui questa tendenza racconta proprio la relazione stretta tra l'occhiale e il volto. Sono montature e sono ispirazioni che vanno a sottolineare la bellezza del volto, non a coprirlo, ma a davvero giocare una relazione virtuosa in qualche modo. Qui diciamo tutte le più importanti innovazioni si giocano sul dettaglio e in questo senso è molto interessante un occhiale proposto da Movitra, che ha brevettato un sistema che permette alla montatura di ruotare su se stessa. Sono tutte montature dal design molto pulito, molto proporzionato, che però hanno dei piccoli dettagli che permettono davvero di fare la differenza. Come sempre tutte le immagini nella gallery sulla nostra pagina Facebook, siamo alla terza tendenza. E la terza è quella più originale, quella che noi abbiamo chiamato Edgy Borders, che è un gioco interessante. Oggi col termine edgy si indica tutto quello originale, incisivo, cioè è la forma più avanzata della coolness. Allora abbiamo voluto giocare su questo termine e giocare sull'idea di bordo, di confine. Se ci pensiamo poi gli occhiali rappresentano una sorta di cornice, no? Del viso. Allora qui in questa tendenza si esprime tutta la creatività, tutte le influenze che arrivano spesso dal mondo dell'arte, dalle avanguardie, per cui qui in qualche modo l'occhiale diventa una cornice per un'opera d'arte che non è solo quella del viso ma è proprio quella della montatura, le sperimentazioni materiche, le forme più inconsuete. Al Midoni abbiamo viste tantissime occhiali davvero che sono quasi sculture da viso, sono oggetti di design sofisticatissimi che lavorano proprio sull'idea di confine, di sconfinamento artistico. Qui gli esempi sono tantissimi, erano molto interessanti questi occhiali Frida di questa azienda Kime, che è un'azienda italiana che significa proprio onda, dalla parola greca onda, e che davvero ha proposto queste piccole sculture, forme esagonali tenute insieme da fili, da ponti di metallo sottilissime, e che davvero vanno a valorizzare, non minimizzando, ma in qualche modo assumendo una personalità e un carattere molto molto forte. Molta sperimentazione anche in questo settore sui materiali, Valentina, ce lo confermi? Assolutamente, ci si sono visti materiali di ogni genere a Mido, dalla carta ai sintetici più interessanti, ma vorrei citare due aziende, un'azienda bretone che ha presentato questo modello Naoned creato di alga, cioè sono occhiali realizzati con una pasta di alghe. Piuttosto che estremamente interessante, il primo occhiale realizzato in marmo e fibra di carbonio, per cui un distillato davvero straordinario in soli 32 grammi. È molto interessante perché ci racconta come le nuove tecnologie aprono la frontiera del progetto in modo straordinario. E ricordiamo tra l'altro, Valentina, come l'Italia avanti, insomma, sia territorio di eccellenza per questo settore e per questo accessorio, non va dimenticato. Assolutamente, beh, diciamo che delle aziende presenti a Amido, l'eccellenza è molto italiana, anche se ci sono stati espositori che arrivavano da tutto il mondo, che però, guarda caso, producono spesso nei nostri distretti. Grazie a Valentina Ventrelli per essere stata con noi anche questa volta, alla prossima. Grazie a tutti, buonasera. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale. Il mondo dei consumi è cambiato, molti dei riferimenti tradizionali sono scomparsi, noi però abbiamo scelto la nostra guida. Francesco Morace, ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Il tema che hai scelto per questa puntata? Allora, il tema di stasera è un tema legato all'ascolto e in particolare all'esplosione di un'attenzione particolare ad esempio all'urban design dal punto di vista del sound, quindi qualcuno parla proprio di urban sound, cioè il suono di una città, quello che una città produce nella sua vita, e come sempre è un grande ritorno di attenzione al genius loci delle città, ecco, quindi ascolto e non solo visione, questo è molto lontano dalla società dell'immagine di qualche anno fa. E ascolto significa anche attenzione ai suoni, a quello che noi produciamo dal punto di vista sonoro. Tra l'altro, nell'epoca appunto dei social, dei big data e della loro analisi, una metafora perfetta quella dell'ascolto e del suono. Sì, dell'ascolto, del suono, della voce. Qui noi lo innestiamo anche a questa, diciamo, particolare importanza delle singole città. E qui mi permetto di parlare di qualcosa che ci riguarda. Il famoso Festival della Crescita, che lo scorso anno è stato a Milano, quest'anno sarà in 10 città più Milano, perché a Siracusa, Bari, Torino, Brescia o Venezia, tutte città dove saremo, c'è un mondo nuovo da ascoltare, da comprendere, e quindi il festival è anche un laboratorio da questo punto di vista. Ricordiamo il senso di questo percorso verso la crescita, Francesco. Sì, è un percorso davvero da laboratorio, perché l'idea è quella di trovare delle occasioni, sono dei weekend, 3 giorni, 2 giorni, in queste diverse città dove noi proponiamo un'idea di crescita felice, che vuol dire coinvolgendo le persone, gli universitari, gli imprenditori, ma ci aspettiamo che vengano presentati dei progetti veri, quindi una visione del futuro e non solo celebrare ciò che è già stato fatto. Credo questo sia il taglio innovativo che cerchiamo di lanciare a Milano e poi in tutta Italia. Tante città, tanti nomi, tante date. Dove si trovano tutte le info, Francesco? Tutte le info sul nostro sito www.festivalcrescita.it o pagina Facebook Festival della Crescita. Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.